raccontami un po' la storia di questo vino qua che si chiama Libertario Rosso, dedicato a due partigiani, Giovanni Primo Rocca e Omero Fulmine Salacco, comandante e vicecomandante Brigata d'Assalto Garibaldi, Stella Rossa. Sì, hai letto la dedica dell'etichetta che Claudio è il produttore di questo vino, della Viranda di Calamandrano in provincia di Asti, ha voluto dedicare a questi due personaggi che lui ovviamente ha conosciuto e che ha stimato, anzi ammirato moltissimo. Il vino è di aver dedicato questo vino a loro, perché questo è un vino che lui ha fatto, diciamo, fuori dagli schemi, controcorrente, controtendenza, esattamente come erano loro da vivi. Un vino fuori moda, perché il bracchetto viene vinificato ormai da più di 30 anni come vino dolce, frizzante, amabile da dolce. Questo invece è vinificato come si faceva una volta, come si faceva proprio ai loro tempi, di questi due partigiani, quindi vinificato secco, da bere da pasto. E siccome non ha neanche la possibilità di utilizzare la denominazione, ha deciso di dargli un nome di fantasia, dicendo: il primo vino di questo tipo che farò lo dedicherò a loro, e infatti l'ha chiamato Libertario Rosso. Adesso qui siamo in audio, non si vede, ma l'etichetta è con i colori rossa e nera, proprio come la classica bandiera anarchica, esattamente, con la dedica scritta in etichetta. Questa è un po' la motivazione di questo vino. Sì, ma io volevo chiedere, a proposito della Critical Wine, volevo chiederti, sarà possibile un giorno che la Critical Wine vada oltre una dimensione di evento dimostrativo, che altri modi di produzione sono possibili, stili di vita, altro modo di distribuire, insomma, appunto si parla della filiera corta, eccetera. Se riesce ad andare oltre, cioè politicamente, oltre a questa dimensione qua puramente dimostrativa, ha delle potenzialità. Questo è l'obiettivo che ci si pone, e per il quale abbiamo iniziato a intraprendere alcune sperimentazioni, prima fra tutte quella della carta dei vini, che è stata presentata proprio ieri qui a Leoncavallo come prima presentazione nazionale, che raccoglie 20 aziende che hanno seguito questo percorso. Però è un inizio, noi ci auspichiamo che queste aziende aumentino, che ce ne siano sempre di più, e che la cosa abbia un riscontro reale, cioè quello di creare una filiera diretta che tramite la diffusione di questa carta crei un circuito dove ristoratori, enotecari, gruppi d'acquisto, gruppi di persone riescano tramite questi strumenti a ristabilire con continuità rapporto diretto col produttore, quindi portando quella dimensione del coproduttore, dove il consumatore diventa parte integrante della produzione, in quanto diciamo elemento finale ma indispensabile, e possa quindi innescarsi questo circuito che diciamo elimina questi passaggi intermedi, no? Che bizzarramente, no, nel mercato odierno creano una diciamo un peggioramento, una deprivazione delle caratteristiche del prodotto, perché i prodotti vengono spostati, vengono lasciati a giacere in posti magari inadatti, al sole, all'ombra, alla pioggia, poi questo parliamo di vino, ma questo vale per tutti i prodotti agricoli, e più passaggi questo fa, quindi più passaggi di il prodotto ha in cui si degrada e si deteriora, più acquisisce prezzo, più acquisisce valore, un paradosso assoluto che va ribaltato irrimediabilmente per non far finire diciamo nel nulla la cultura, la tradizione agricola italiana, che sta venendo minacciata, diciamo, da questo meccanismo economico. Beh, in prospettiva sarà possibile che diventi un network europeo la Critical Wine? E iniziamo a capire se riusciamo. È chiaro, non ci si pone mai limiti quando si lanciano queste sfide, no? È una sfida nel suo piccolo, perché parte da piccole realtà, da piccoli produttori, è una sfida rivoluzionaria, perché va esattamente contro quelle che sono le regole del mercato di oggi, quindi uno non si pone assolutamente il limite nazionale su questa dimensione. Certo, bisogna iniziare a fare delle sperimentazioni. attenzione a capire come applicare poi nel quotidiano, nella pratica reale, queste dimensioni, che poi la dimensione del critical wine è l'incontro diretto tra chi produce e chi consuma, che permette, oltre che di diciamo evitare gli ingiustificati rincari, anche di capire il prodotto, di mettersi in comunicazione attraverso il prodotto. Questa è una dimensione che va resa più stabile, più quotidiana, quindi bisognerà anche tramite magari non so, l'intervento di amministrazioni pubbliche locali, trovare una dimensione, perché l'amministrazione pubblica locale concede i suoi spazi, territori per la installazione degli ipermercati, bisognerebbe che allo stesso modo, anzi di più, lo concedesse per luoghi di incontro e di contatto tra chi nel territorio produce e chi nel territorio consuma. Allora, quello diciamo è lo scarto, è quello che potrà portare diciamo a una reale modificazione dei rapporti. Per finire invece un discorso che si lega nell'immediato con la Critical Mind, è sicuramente la mobilitazione di Val di Susa, non lo so, un pensiero che va a coloro che stanno resistendo in questo momento sotto il ghiaccio e la neve, all'inizio dei lavori di questo megaprogetto tanto speculativo quanto devastante per i territori. Il pensiero è costante, soprattutto per noi che veniamo dal Piemonte, in questi giorni ogni minuto il nostro pensiero va a loro, soprattutto con il tempo avverso di queste giornate, nevicate, ghiaccio, temperature sotto zero, però c'è questa grandiosa comunità che non si fa fermare da nulla e ha capito che l'unico modo di affermare diciamo realmente il proprio rapporto, la propria relazione col territorio, la propria necessità di essere protagonisti di quello che sono le decisioni che li riguardano direttamente, perché non si tratta poi solo della questione della linea del treno, perché si parla di uno sconvolgimento di tutta la microeconomia locale, quindi gli agricoltori, i contadini sono i primi ad essere colpiti, ma è di lì di conseguenza, sempre ripensando alla necessità di tenere stretti i rapporti tra territorio, tra chi produce e chi consuma, la devastazione, l'impossibilità di produrre anche solo i prodotti della terra in un certo modo impedisce che questi vengano consumati, quindi a pioggia innescano sei meccanismi per cui la valle verrà irrimediabilmente globalizzata, perché non potrà più essere autosufficiente, non potrà più essere quello che è sempre stata, perderà, oltre alla salute, oltre a tante altre cose, perderà per sempre l'identità culturale di secoli di storia. Questa è la cosa forse più importante e meno capita, meno pubblicizzata, meno discussa sui media attualmente, però se uno va un attimo al di là del dibattito stupido, no, che c'è sui giornali tra bisogna fermare o no il progresso, che è una stronzata, insomma. Quale progresso? Ecco, che è un dibattito, no, stupido a prescindere, ma ovviamente funzionale a gestire opinione pubblica. Se uno va dietro a fondo di queste cose, capisce che dietro a questa contestazione c'è questo, c'è la storia, la cultura di un'intera popolazione che è un po' così caricaturalmente è stata anche paragonata al villaggio di Asterix, però non è poi neanche così giusto farlo in maniera caricaturale, perché ci sono delle cose importanti. Per cui appunto se uno va dietro capisce che la determinazione, la voglia che questa gente ha è data proprio dalla necessità di continuare a esistere. Ok, tu sei? Gianmarco. Gianmarco, qual è l'azienda agricola? L'azienda che produce il Libertario Rosso è la Viranda di San Marzano Liveto in provincia di Asti. Ok, grazie mille. Grazie a te.